la diretta del venerdì sera. In studio Master Nick. Siamo in attesa dei collegamenti live con le sale e i DJ del ristorante convento. Buon ascolto. Eh sì, ben ritrovati a tutti. Cedo la parola, io sono Mr. Day, faccio in questa sera, in questa diretta faccio solamente la regia, quindi cedo la voce a Alex Angioletti. Grazie per il tuo intervento iniziale. Iniziamo a salutare tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando grazie a Risto Radio Convento, la radio web del Convento di Donato di Garda. Siamo in compagnia di Mr. Dave alla regia e alla mia sinistra c'è Sandrino Sattellante, Babbo Natale. Siedo alla sinistra del padre. Ancora, ecco. Come la scorsa settimana. Uguale, anche la sinistra. Sì, ah, sempre sì, uguale. Sempre uguale. Mi ripeto. Ti ripeti. Eh sì, gli applausi però non mancano mai. Gli applausi non mancano dalla regia, ma non è spontanea. Stasera mi sa che è un po' malata sta regia. È a rallenti stasera. Vabbè, davvero. Allora, siamo in diretta anche sui social, in diretta Instagram, grazie al profilo anche YouTube. Abbiamo in diretta YouTube del convento, sì, diretta di Sandrino Convento. Sì, sì, Instagram. A poco incrociato stasera. A poco incrociato, cioè abbiamo anche la diretta di Alex Angioletti. In questo momento sono veramente tanti. Vada lì. Sì, ne hai di amici, eh? Sì, io due, ma di quelli giusti, Cioè, pochi ma buoni, ok. Allora, sì, siamo qui, questo venerdì doc, veramente in speciale, siamo vicini alle feste, ci sarà anche un motivo di più per festeggiare questa sera e lo spirito non manca perché al convento questa sera si sono passate a trovare tantissime aziende che poi più tardi ricorderemo grazie al Dedicomania, no? Giustamente, sì, perché festeggiamo il Natale, c'è aria di Natale? Aria di Natale. Vuoi sentirla? No, okay. Pino Silvestre. Ascolta, sai che cosa è successo a Palermo? A Palermo. Sì, busca stasera si zuppa il biscottino si informa il poppettone. Salutiamo Matranga e Mina a Palermo chi è che saluti? È la diretta YouTube. Ecco, teneva anche a precisare il nostro tecnico Mr. Day che siamo in diretta YouTube anche convento, su YouTube, anche esatto, su Risto Radio Convento. Mamma mia quante dirette, ragazzi, siamo troppo diretti. Sì, è appunto. Allora, stavo raccontando questo aneddoto che praticamente tu mentre giri nel mercato rionale della bucceria di Palermo. Sto girando. Ok, ecco. Così mi aggiro. Vieni un attimo. Eccomi. Distratto da una bagnata. La bagnata sarebbe il canto di vendita. Cos'è? Sono qua, vendo quello. Ma fammelo in dialetto. Abbiamo i pesci, avevo i pulpici, insomma, più sei capace, più vendi, no? Ok. Allora, c'era sto tipo che dietro la bancarella diceva: bevi da me, paghi a Natale. E quindi devo pagare. No, bevi da me. Sì. Perché lui faceva sciocchini, insomma, una specie di un barman improvvisato. Così, bevevi da lui, sì? Ma paghi a Natale. Ma Natale si chiamava lui. Natale era il proprietario del bar. Ah! E allora tutti pensavano, essendo estate, ho detto, siamo a posto. C'è tempo. E poi dopo c'è tempo per dimenticare, no? Che in buona sostanza invece doveva pagare a Natale. Stanno ridendo o si stanno salutando, non so cosa scrivono perché però sono tanti a seguirci. Allora, sì, ascoltiamo un po' della musica, ore 22:25 di Venerdì Doc. Dai, abbiamo selezionato qualcosina, vediamo la regia tecnica cosa ci ha preparato. Io non ho seguito nulla sta settimana, quindi ma io non ero pronto, non mi hai detto che volevi proporre qualcosa. Ecco, perfetto. Io invece confermo con coerenza che non ho preparato nulla, anche dalla regia tecnica ha detto che Alex Angioletti non ha preparato nulla. Giustamente, c'ha la regia tecnica. Stasera andiamo a mangiare fuori, insomma, non ho preparato nulla. Se c'è bene la regia, è un po'. Dai, seleziona, dai, fai un baby cake così. Mi piace questa cosa. A caso, dai, facciamoci guadagnare un po' di soldini dalla SIAE. Quindi, canzoni natalizie, niente. Vuoi introdurla? Non baby cake da 0 a 100? Da 0 a 100 perché prendiamo la multa. È molto natalizia. Ristorato convento, stiamo per ascoltare baby cake da 0 a 100. In quanti secondi? Verso il conto di quanti viaggi ti fai, quanti chilometri senza partire mai. Io cerco il mare mentre tu cerchi il wifi. Quest'estate cosa fai? Faccio di tutto, prendo e mi butto. Yeah. un cappuccino e tu fos un lettino. Hola papito, no habla español. Andale, andale. Altro festino, cervello nel frigo. Quanto sei figo, capisci che dico? Sarà un tattoo di cui mi pentirò. Andale, andale. A casa in un posto straniero, dal cielo cade un desiderio. A cento partiti da zero. Che sale che ti prende. Se fuori c'è la notte che si accende. Dammi un'estate che ricorderò per sempre. Salta sulle spalle tra la gente. Solo un battito che sale che ti prende. Sei una musica che brucia sotto pelle. Sai che l'estate può durare anche per sempre. Andale, andale. Ristorato convento alla conduzione, c'è anche il nostro Mister Day, regia Sandrino. Abbiamo scherzato tantissimo con le dirette incrociate dell'Instagram e anche di YouTube. Del convento. Cioè, veramente, Sandrino, poi Sandrino, c'è, ci sono le dirette incrociate. È crollato tutto. È caduta la diretta. Tornate da me. Ci siamo comprati. Sono incrociate. Jordi, c'è Jordi. Stiamo contendendo i diretti. C'è Jordi. Ciao Jordi. Fatto un pasticcione. Anche se non ci vediamo domenica, ti vedo adesso. Teleferico. Jordi Baffo. Siamo tornati in diretta venerdì doc. Abbiamo ascoltato da 0 a 100 con di Baby K. Ovviamente Sandrino teneva a precisare in un minuto. Ce la possiamo fare 100 km orari. Allora, questa sera ne sentiremo delle belle. Sono tanti amici che ci passate a trovare. Festeggeranno anticipatamente il Natale. Si faranno tantissimi auguri. Mangeranno e beveranno veramente tantissimo. Stasera sì. Bella vista, ragazzi, spazio. Si vede, c'è una bellissima vista qua. Bella la vista. Bollicine. Ma io voglio approfittare di tutto questo sistema ipertecnologico per fargli auguri a tutti quelli che conosciamo, no? Nel senso, anche se non ci possiamo vedere dal vivo, ce lo facciamo così gli auguri di Natale, no? No. Sei bellissimo. È maschio. È Jordi. È Jordi. Allora, sì, approfittiamo per fare tanti auguri. Last Christmas, no? Facciamo un po' di sensibilismo, no? Sì. Stai lontano però. Perché non siamo solo chiacchiere distintivo, no? Siamo anche sensibilismo, perché ci stiamo avvicinando al Natale. Tu hai già fatto la regalo. Sto avvicinando al Natale. Alla Enza. Cosa hai fatto la mamma della Enza? Un pacco. Secondo me gli hai comprato sulla scatoletta del tonno. Del tonno, esatto. E come dice Carlone, la pasta col tonno della Enza. Della Enza, è famosissimo. Richiestissima. A Brescia, ragazzi, tutti la richiedono. Che il tonno è il pesce più veloce, no? Perché è insuperabile. Bellissima questa. Non l'ho mai sentita. Occhio, non muovere la diretta. Non muovere la diretta. Mi cala l'audience. Ma dobbiamo guardare anche in cielo, perché abbiamo le due webcam che è collegato su YouTube. Allora, andiamo a selezionare l'altra musica. Quella che ho scelto io. Ah, l'hai scelta Sandrino. Sì, la scritta. Ah, perfetto, sì. Last Christmas. Sì, perché ci tengo che a casa allora, tutti sul divano si tengono così abbracciati. Facciano altro sul divano. Prima si abbracciano, poi vediamo come va a finire. Ecco. Allora, sulle note. Sì. Di una canzone, di una grande sensibilità. Cosa diciamo? Ah, 15 secondi, cosa diciamo? Ah, sulle note di una grande musica, un grande brano, noi ascoltiamo Last Christmas, selezionato dal nostro Sandrino al Ristorato Convento. Dedicato a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento. Happy Christmas. rientrati in diretta dagli studi di Ristorio del Convento. Alex Angioletti, Sandrino, Mr. Day, siamo in diretta. Ma attenzione, andiamo sempre veloce, no? Sì, nella vita, sì, ma sì, la selezione musicale ad arrivare. Abbiamo selezionato un altro brano, sempre al Natalizio, di Laura Pausini con The Patrick William Orchestrale. No, no, ma possiamo entrare. Mi ha dato ansia, prima ha detto devi farlo subito perché non ci abbiamo. No, l'ansia mi è creata te l'ansia. L'amichi! Ciao! Quella, due passanti. Sono due passanti così. Due passanti casuali? Casuali. Ciao passanti. Ma non distraiamoci. Non distraiamoci. Allora, attenzione, allora. Mi distraisco. Niente corse. Allora, facciamo tutto con calma. E quindi. E devo andare a prendere il pino fuori? Ecco, a proposito, prima mi stavo lamentando un attimo mentre eravamo in parte in diretta. Che. Ma. Adesso mi sta mettendo in un pezzo. Non ti voglio ansiogenare. Ma tu capisci che noi creiamo confusione a casa. Allora, sapete perché Alex fa il conduttore? Dio, dai, sentiamo, ve lo dico? Sentiamo. Perché di giorno fa l'elettricista. Quindi per favore non fammi perdere il filo. L'avete capita? Per favore non fammi perdere il filo. Va bene, ok. Tu sai che potresti ripetere 220 volte e non la capisco. Un mio compagno di classe in seconda superiore ha preso una nota da parte dell'ingegnere elettronico. Come mai? Perché si era distratto, pensava ai cavoli suoi, quando l'argomento era appunto il filo. Era tutto giallo, no? Allora l'ingegnere gli ha detto: guardi che lei deve stare un po' più attento. Sì, scusi, ho perso il filo. Allora l'ingegnere si è un attimo risentito, fa: lei mi prende anche in giro fuori. Capito? È stato bello. Sono momenti elettrizzanti. Adesso lanciamo il disco dalla finestra. Lo lanciamo così? Lanciamo. E entra un altro disco. Allora, ufficiale, Laura Pausini de Patrick William Orchestra. Noi sentiamo Jingle Bells. Va bene, dedicato a Paola, alla Miki, a Jordi. Io lo dedico, Io dedico, guarda che lo faccio, Guarda sì, che sì, io. Sì. Dedichiamo, dai. Un ascolto. Seguatismo? Ma chi la dedichiamo quindi? A loro. Ai nostri ascoltatori. E che cos'è? La Laura Pausini con The William Patrick Orchestra. William Orchestra. Ci possiamo ascoltare con Laura Pausini. Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock. Beh, ascoltiamola. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bells hying, dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock, make sense. Jingle bell rock. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. rientrati in diretta, ragazzi, veramente ci siamo fatti trasportare dalla voce di Laura Pausini, Jingle Bell. Era la Pausini questa? Sì. Ah. Non l'avevo riconosciuta, parlava in straniero. Parlava di straniero, mannaggia, cioè, buttatelo fuori. Tra l'altro non lo sa sua mamma che è andata al mare. E quindi? Con lo straniero, come si chiama? Ah, Valeria Valentina. Ah, che c'entra, era Junior Russo quella. Ho sbagliato? Beh, basta che non lo sappia, eh. No, era Junior faccio... Russo. Oh, so, è stata al mare. No, no. No, chi era? Sono andato ai dov'è che è andata al mare? Qua, in compagnia di uno straniero è andata. Però non deve saperlo sua mamma, e mia mamma non lo deve sapere. Sì, eh? Sì, vabbè. Dai ragazzi, salutiamo, allora, facciamo tanti auguri di buon Natale. Allora, approfittiamo di questo spazio in diretta al ristorante del convento da parte di tutto lo staff del convento, venerdì doc, noi vi auguriamo buon Natale, ma ci sentiremo perché veramente il palinsesto del convento è pinto, anzi seguiteci sui social, sul sito del convento dove troverete tutti gli eventi calendarizzati, dove troverete anche la serata dedicata al Natale, la vigilia, il San Silvestro, poi anche la pericena del... la prima pericena del 2020. Ok, è bella fare la pubblicità, sì. Anche chiarire un attimo per tutto quanto è stato organizzato, no? Che mi sono un po' arrabbiato sui dispetti, però ce l'ho fatta la Spider-Man a divincolarmi. Allora, Sandrino, vuoi salutare qualcuno? Io tutto il nostro pubblico, proprio tutti, eh? Anche la Cecilia, Giorgi, possiamo dire Laura Delia, perché ci sono tantissimi tutti. Ragazzi che ci stanno guardando grazie a diretta Instagram e la zona YouTube del salutiamo commento. Anche Master Nick che ci sta ascoltando da casa. Sì, Master Nick, ciao Master Nick, ciao bello, ti abbiamo fregato la regia. Ciao bello, ecco, ciao bello. Quindi tanti auguri di buon Natale a tutti. Augurone. E ci aspettiamo. Però vi aspettiamo qui al convento. Dai. Quando? Il 31? Ma non solo, per Natale, per la vigilia, per la pericena, per il sabato dinner dance. Insomma, perché, siamo aperti per ferie. Perché noi, bello, bravo, dici giusto, noi aperti per ferie. Ciao ragazzi, auguri, buon Natale. Posso dire una cosa, è proprio figlio di Putin questo. Sei proprio figlio di Putin. Guarda che mi viene la voglia in testa, eh. Posso salutare? Ho sbagliato. Sì, salutiamo. E gobba ciò. 3, 2, 1 per salutare, Ciao ragazzi che ci hanno ascoltato anche sulle dirette Instagram e YouTube. Ciao. Auguri a tutti. Ah, dille dalla mia parte. Ti ha salutato. Posso chiudere? Sì, certo. Passo ciao, e chiudo. Sai che noi